Ta Yanari, Yanari, Hanachu Haranaya, Kata Yanari, Kata Veria, Kata Kata Yanari, Kata Yanari, Lurgustia, Kata Kata Yanari, Yanari. Benedicite nomini. Benedicite nomini eius, annunciate diem de dies. Salutare, salutare, salutare eius, salutare eius, salutare, salutare, salutare eius, eius, eius. Canta Yanari, canta Veria, Canta Yanari, Canta Yanari, Canta Veria, Canta Canta Yanari, Canta Yanari, Lurgustia, Canta Canta Yanari, Yanari, Cantate, exultate.